Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi l'Adico. Saluto il presidente Carlo Garofolini, benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti. Anche oggi un altro argomento sicuramente interessante, parliamo dell'arbitro bancario, una figura che personalmente non conoscevo. Sì, guarda Francesco, ti dirò che parliamo dell'arbitro bancario, un accenno alla battaglia che l'arbitro sta facendo da quasi un anno nei confronti delle poste italiane. Innanzitutto devo per forza spendere due parole, in quanto è una vicenda che, come detto, abbiamo avuto mesi fa diversi consumatori che si sono rivolti a noi, perché rispetto ai titoli che avevano sottoscritto con le poste 10, 20, 30 anni fa, l'occasione di andare a ritirare quanto accumulato, si sono trovati a ricevere una somma completamente diversa, tra parentesi dico inferiore, rispetto a quanto si aspettavano i consumatori, e si sono rivolti all'Adico, e l'Adico, dopo aver diffidato le poste, oggi ci sta rivolgendo all'arbitro bancario. E come sta andando? Cosa dovrebbe fare l'arbitro bancario? L'arbitro bancario innanzitutto è un organo di mediazione civile che normalmente si occupa di quelle che sono tutte le problematiche legate al mondo finanziario. Di solito per definizione sono rivolte alle banche queste dispute conciliatorie, invece in realtà abbiamo visto che è competente anche con le poste proprio per quanto riguarda questo argomento che insomma ha a che fare con questi investimenti che i consumatori hanno contratto molti anni fa. Noi ci siamo rivolti all'arbitro bancario, ci sono già state in Italia delle sentenze favorevoli per quanto riguarda questa vicenda dei buoni fruttiferi, siamo fiduciosi e convinti che lo saranno favorevoli anche tutte le nostre, e l'invito è quello di indurre i consumatori quindi a non accettare quello che è la proposta delle poste, ma è quello di appunto andare avanti nella battaglia, perché riteniamo che un contributo di 20 euro è una figura come l'arbitro bancario, che è sicuramente gratuita e di facile accesso, come quella che è per definizione, vale la pena insomma a fare questo passaggio per ottenere i propri soldi indietro. Sì, anche perché immagino che insomma su un deposito X per tot anni insomma i soldi che potremo ricevere potrebbero essere anche abbastanza, no? Guarda, noi abbiamo un caso di una persona che nell'epoca aveva circa 30 anni fa aveva investito 1 milione, doveva tirare secondo dei calcoli circa 16.000 euro, 15.000 qualcosa, e si è trovata a riceverne poco più di 6.000. Non è l'unico caso, ma ce ne sono tantissimi, l'Adico ne ha circa una ventina che sta gestendo, abbiamo mandato già una diffida alle poste, ci stanno rispondendo che abbiamo deciso di rivolgersi all'arbitro bancario. Il consumatore deve sapere che l'arbitro bancario non è un giudice, però è una figura importantissima, perché qualora che dia un esito positivo, un giudizio positivo alla vicenda, certamente se Poste decidesse mai di ricorrere alla sentenza dell'arbitro, certamente andrebbe davanti un giudice con un parere negativo rispetto a quella che insomma è un esito che insomma vengono dati da delle figure esperte, per cui siamo convinti che sia un passaggio dovuto, ma soprattutto che, come detto, costa poche decine di euro, permette a ciascun consumatore di poter accedere tranquillamente. All'Adico abbiamo fatto tutti i comunicati adeguati, abbiamo messo a disposizione i moduli da scaricare gratuitamente, ricordiamo che l'indirizzo è www.associazionedifesaconsumatori.it, e quindi invitiamo tutti ad andare avanti e pretendere insomma i soldi che 20, 30 o 10 anni fa avevano contratto i consumatori regolarmente con le poste. Sì, perché ho come l'impressione che il consumatore medio si senta sempre debole rispetto alle istituzioni, no? Alle grandi banche o alle poste, come dicevamo, e quindi spesso il primo pensiero è dire vabbè, mi hanno fregato, e lasciar perdere e tenersi quello che ti danno indietro, invece forse certe volte vale la pena di puntare i piedi proprio facendosi aiutare magari dall'associazione difesa consumatori, quindi assolutamente una cosa che andava segnalata e speriamo di aiutare anche gli ascoltatori di Blu Radio Veneto nel caso fossero incappati in una situazione del genere, e invitandoli a contattare l'Adico. Carlo, l'appuntamento quindi è rinnovato, perché non ci fermiamo, l'Adico va avanti tutta l'estate ed è sempre aperto, come anche Blu Radio Veneto, quindi l'appuntamento è rinnovato a martedì prossimo con un altro argomento. Grazie e buona giornata. Allora non mi resta che augurare anche a te buon lavoro e cogliere l'occasione sempre per salutare tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.